Capitolo 2. Il primo sposalizio. Sul portico le rose di giugno si apersero quella mattina più di buon'ora e più belle, liete anch'esse del cielo sereno senza una nuvola. Parevano volti accesi che dondolassero al vento sugli steli, bisbigliandosi fra loro i commenti su ciò che vedevano. Qualcuna faceva capolino alle finestre del tinello, dove era apparecchiato per il banchetto nuziale. Altre salivano al piano di sopra a salutare con un sorriso e un inchino le sorelle affaccendate intorno alla sposa per vestirla. Altre davano il buongiorno alle persone che andavano e venivano per il giardino e nell'entrata. Tutte, dalle più accese alle più sbocciate fino al bocciolo quasi incolore, rendevano il loro omaggio di bellezza e di profumo a colei che tanto le amava. E lei stessa, Meg, era una rosa. Quanto c'era di meglio, di più dolce nel suo cuore e nell'animo suo, pareva che quella mattina le fiorisse sul volto, lo rendesse più luminoso e più tenero, gli desse un fascino più bello della bellezza vera e propria. Non indossava sete né pizzi, non portava fiori d'arancio. Aveva detto: «Non voglio mostrare nulla di diverso dal solito, nulla di artificioso in questa giornata. Non voglio un matrimonio chic. Che ci siano intorno a me le persone che amo, solo quelle, e ad esse voglio apparire quale sono. Per loro voglio essere io, la solita Meg». L'abito da sposa se l'era fatto da sé, e col lago vi aveva cucite tutte le dolci speranze, le innocenti fantasie del cuore giovanile. Le sorelle le avevano fatto le trecce, i soli ornamenti che portava erano i mughetti, i fiori che il suo John amava di più fra quanti ne crescevano in giardino. «Sei sempre la nostra Meg di tutti i giorni, ma così cara che ti abbraccerei se non temessi di sgualcirti il vestito», esclamò Amy, contemplandola soddisfatta, quando il gran lavoro fu terminato. «Mi fa molto piacere, ma abbracciarmi e baciarmi lo potete tutti, non ci badate se il vestito si spiegazza. Di pieghe per questo motivo ne voglio avere tante oggi». E così dicendo, Meg apriva le braccia alle sorelle che vi si gettavano coi loro volti primaverili, liete che l'affetto nuovo nulla togliesse a quelli di prima. «Adesso devo fare il nodo della cravatta a John», dichiarò Meg. «Poi voglio stare qualche minuto col babbo, noi due soli nello studio». E scese di corsa da suo padre. Dopo ciò non si staccò più dalla madre, dovunque andasse. Sentiva che il sorriso del caro volto rugoso nascondeva una pena, la pena di vedere il primo dei suoi uccellini spiccare il volo dal nido. «Guardiamole un po', le sorelle, ora che stanno insieme a dare gli ultimi tocchi ai loro semplici abbigliamenti. Forse è il momento migliore per osservare i pochi mutamenti che i 3 anni passati hanno recato nel loro aspetto. Tutte sono in fiore adesso. Jo ha addolcito un po' le sue angolosità e ha imparato a muoversi con disinvoltura, se non con grazia. I ricci indisciplinati della tosatura ora si sono trasformati in una treccia corta e grossa, la quale si intona meglio alla piccola testa sulla persona alta. Le gote abbronzate splendono di un colorito fresco, negli occhi le brilla una luce dolce. La lingua pungente non ha oggi che parole gentili. Beth si è fatta più snella, più pallida e più cheta che mai. Nei begli occhi languidi, ora più grandi, c'è un'espressione che rattrista a guardarla. Lei però non è affatto triste. È l'ombra di un dolore sopportato con pazienza superiore all'età, con rassegnazione angelica. Beth non si lamenta mai. Parla sempre di star meglio fra poco. Amy passa a buon diritto per la bellezza di casa. A 16 anni ha già il fare e il portamento di una donna fatta. In realtà, più che vera bellezza, possiede quel fascino che si chiama grazia e lo mostra nelle linee del volto, nella forma e nel gesto delle mani, nelle pieghe della veste, nell'onda dei capelli. Qualche cosa d'inconscio, ma così armonioso che ha più attrattive della regolarità perfetta. La sua pena è sempre il naso, ma non ha mai voluto diventare greco. Così pure la bocca, un po' larga, col labbro inferiore che sporge, risoluto e risentito. Sono però questi difetti che in realtà danno al suo volto un carattere, ma essa non se ne rende conto e trova una consolazione soltanto nel colorito, bellissimo, negli occhi azzurri e vivaci e nei capelli d'oro, abbondanti e ricciuti. Indossano tutte e tre un vestito leggero di un grigio argento, il migliore che hanno per l'estate. Fra i capelli e sul petto sono appuntate le rose dai colori più vivi. Tutte e tre hanno proprio l'aria di ciò che sono. Il volto è fresco, il cuore ribocca di un'allegrezza che si fa in certi momenti pensosa. Quando in mezzo alla loro vita di ragazze attive si schiude il romanzo della femminilità alla sua pagina più seducente. Niente solennità nella cerimonia. Tutto si doveva svolgere alla buona, nel modo più naturale. Sicché la zia March, quando arrivò, rimase scandalizzata vedendosi correre incontro la sposa per abbracciarla. Vedendo lo sposo che riattaccava una ghirlanda caduta a terra, e il signor March, con tutta la sua doppia autorità di padre e di ministro, che saliva la scala serissimo, con due bottiglie di vino sotto braccio, una per parte. «Cosa mi tocca vedere?» esclamò la vecchia signora sedendosi al posto d'onore preparato per lei e ravviandosi le pieghe froscianti della veste di moer color lavanda. «Tu, figliola», disse alla sposa, «fino all'ultimo momento non ti dovresti lasciar vedere». «Ma zietta, non sono mica uno spettacolo, io. Non c'è mica nessuno che viene ad ammirarmi, a criticare il mio vestito, a fare il conto di quanto ci costa la colazione. Sono troppo felice io, per curarmi di quello che dice o pensa la gente. E il mio piccolo sposalizio me lo faccio come piace a me e basta. John, caro, eccoti il martello». E Meg tirò innanzi ad aiutare quell'uomo nel suo lavoro che stonava forte con la solennità di un giorno come quello. Brooke non disse nemmeno un grazie alla moglie, ma, nel chinarsi per prendere dalla sua mano il prosaico strumento, abbracciò la sposina dietro la porta pieghevole, con un volto che provocò la mobilitazione urgente del fazzoletto della zia, perché le si riempirono gli occhi di lacrime. Un colpo, un grido, una risata di Lori, seguiti da un'esclamazione priva di solennità. «Accidenti! Joe ha rovesciato ancora la torta!» Passata la breve agitazione, arrivò una schiera di cugini e entrò la compagnia, come diceva Beth quando era piccina. «Non me lo fate venire vicino, quell'accidente là. Mi dà più fastidio delle zanzare», comandò sottovoce la vecchia signora ad Amy. Le stanze si riempivano e la chioma nera di Lori dominava la piccola folla delle altre teste. «Ha promesso che starà buono oggi. Quando vuole sa anche essere correttissimo», le rispose Amy. Ma si avvicinò prontamente al giovane colosso per raccomandargli che si tenesse al largo dal dragone, col risultato che egli circondò la zia dragone di premure e complimenti tali da farle quasi perdere la testa. Non ci fu corteo iniziale, ma un silenzio improvviso si diffuse nella stanza quando il signor March e la giovane coppia presero posto sotto l'arcata verde. La mamma e le sorelle si strinsero in gruppo intorno a Meg, come per non lasciarsela portar via. Più volte la voce del padre fu scossa da un tremito che però dava una bellezza e una solennità inattese alla cerimonia. La mano dello sposo tremava visibilmente e le sue risposte non si udivano. Meg, invece, guardava il marito negli occhi e il suo sì lo disse con una fermezza e una convinzione che fecero esultare il cuore della mamma. La zia March fu udita tirare il fiato con le narici. Joe non pianse, oh no, ma ci andò molto vicino. La trattenne il pensiero che Lori non la perdeva un momento di vista, con lo sguardo ironico e insieme commosso dei suoi occhiacci neri. Beth nascondeva il volto nella spalla materna. Amy posava come una bella statuina, con un effetto stupendo di sole sulla fronte candida e sulla rosa che le adornava i capelli. Non fu, temo, come si deve, ma il fatto è che Meg, appena si sentì irregolarmente sposata, esclamò «Il primo bacio a mamma!» e si voltò con tutto il cuore a baciarla. E per un quarto d'ora ella parve più che mai una rosa. Tutti quanti approfittarono largamente del privilegio stabilito dall'uso, dal vecchio Lorenz alla fedele Anna che, incoronata da un cappello strepitoso e minaccioso, le piombò addosso nella sala d'ingresso esclamando, singhiozzante ed esultante: «Dio ti benedica, tesoro, 100 e 100 volte. La torta è rimasta intatta e ogni cosa va benone, sai?» Dopodiché tutti quanti sentirono il bisogno di reagire alla commozione dicendo qualche parola spiritosa o provandosi a dirla, il che è lo stesso, perché quando il cuore è leggero la risata viene facile. Non c'era la mostra dei doni, perché questi erano già ai rispettivi posti nella modesta casetta. La colazione fu semplice, con abbondanza di torta e di frutta e molti fiori. Grande scambio di complimenti e di sorrisi fra il vecchio signor Lawrence e la zia March, offrendosi a vicenda l'acqua, la limonata, il caffè. A queste cose si ridussero il nettare e l'ambrosia serviti dalle tre giovani coppiere. Nessuno parlò, però, fino a quando Lori, che ci teneva a servir lui la sposa, fece la sua comparsa con un vassoio pieno di roba e un'espressione imbarazzata. «Non hai mica fracassato tutte le bottiglie, Joe?» domandò sottovoce. «O mi ingannavo? Mi pareva stamattina di aver visto che ce n'era qualcuna in giro.» «No, non ti ingannavi. Tuo nonno gentilmente ha offerto ciò che aveva di meglio, e anche la zia Marce ne ha mandate. Ma il babbo un po' ne ha messe da parte per Beth, e il resto le ha date alla casa del soldato. Lo sai, eh? Per lui il vino è una cosa da usare soltanto come medicina.» E la mamma dice che lei e noi altre figliuole sotto il nostro tetto non offriremo mai ai giovanotti bevande alcoliche. Meg era seria e si aspettava da Lori una smorfia e una risata. Egli invece osservò, serio anche lui e convinto: «Approvo. Quanto male ho visto accadere che non ci sarebbe stato se tutte le donne la pensassero come voi. Non avrai imparato a spese tue, spero?» gli chiese Meg con un'occhiata interrogativa e preoccupata. «No, no, in parola. Però non stare a pensare nemmeno troppo bene di me. Non ci ho avuto merito e mi sono salvato perché non sono stato nemmeno tentato. Dove sono cresciuto io, il vino è cosa comune quanto l'acqua e altrettanto innocua. E così non ne ho mai sentito il desiderio. Però, sai, quando te lo offre una bella ragazza, capirai, non è facile rifiutare.» «Ma tu rifiuterai sempre. Per riguardo agli altri, se non a te. È vero? Me lo devi promettere, Lori. Sarà una ragione di più per fare di questo il giorno più bello della mia vita.» Alla domanda inaspettata e fatta con tanta serietà, il giovanotto ebbe un momento di esitazione. Talvolta è più duro sostenere il ridicolo che un sacrificio. Meg sapeva che se gli prometteva manteneva ad ogni costo, perciò conscia del suo potere. Ne usava, come deve usarne sempre la donna per il bene di un amico. Non disse nulla, ma lo sguardo eloquente di felicità che gli posò sul volto, il suo sorriso, parevano dire: «Oggi non mi si può rifiutare nulla.» E non lo poteva certo Lori, che le rispose con un sorriso e le diede la mano, assicurando convinto: «Ve lo prometto, signora Brooke. Te ne sono molto, molto riconoscente.» «E io berrò alla tua decisione, Teddy», esclamò Joe, battezzandolo con uno spruzzo di limonata che gli gettò col bicchiere e illuminandolo di un sorriso raggiante. Con quel brindisi, Lori assunse l'impegno e lo mantenne poi adonta di mille tentazioni. Con istintiva saggezza, le quattro sorelle avevano indovinato il momento migliore per rendere l'amico un servigio del quale egli fu riconoscente finché visse. Dopo colazione si sparsero in gruppi di due o tre persone per la casa e per il giardinetto, sotto un bel sole che illuminava le cose e le anime. A un certo momento, in cui Meg e John se ne stavano ritti, l'una accanto all'altro nel mezzo del tappeto d'erba, Lori ebbe un'ispirazione felice che diede l'ultimo tocco a quella bella giornata di nozze alla buona. «Adesso tutte le persone coniugate formino la catena con le mani e facciano il girotondo intorno agli sposi, come si usa in Germania. Noi scapoli e ragazze, invece, gireremo a coppie di fuori.» E presa con sé Amy, la trasse di galoppo giù per il viale. L'esempio suggestivo e la grazia della bella coppia trascinarono tutti quanti irresistibilmente. Amy e Lori furono imitati senza obiezioni di sorta. I coniugi March, la zia e lo zio Carroll furono i primi. Gli altri seguirono rapidamente. Anche Sally Moffat, dopo un istante di esitazione, si raccolse lo strascico della veste sopra il braccio e con un fischio chiamò a sé Ned nel girotondo. Ma la coppia più esilarante fu quella della zia March e del signor Lawrence. Il vecchio signore, con molta solennità e con l'eleganza di altri tempi, chiese alla zia l'onore, eccetera, eccetera, e la zia si mise sotto il braccio la canna da passeggio ed entrò saltellando nella catena che danzava intorno agli sposi, mentre la gioventù si disperdeva per tutto il giardino come uno sciame di farfalle in un giorno d'estate. Il ballo improvvisato terminò quando ai ballerini cominciò a mancare il respiro. E allora la compagnia si sciolse. Ti auguro ogni bene, mia cara, con tutto il cuore. Ma temo che ti pentirai, disse la zia March a Meg e allo sposo. Giovinotto, avete trovato un tesoro, cercate di meritarvelo. La signora Moffat, nel salire in carrozza col marito, dichiarò: Sono le nozze più belle che ho vedute in parecchi anni. E non capisco il perché, senza ombra di stile, di etichetta. Lori, se un giorno ti viene in testa di fare qualcosa di simile, chiedi il concorso di una di queste figliuole. Farai una cosa riuscitissima, ne sono certo. Così, diceva il vecchio signor Lawrence a casa sua, nel sedersi nella poltrona per un riposo ben meritato, dopo l'agitazione della mattinata. La casetta degli sposi non era molto lontana. E tutto il loro viaggio di nozze consisté in quei pochi passi per andarvi. Quando Meg scese dal piano di sopra, simile a una giovane quacchera nel suo vestito color tortora e sotto il cappello di paglia assicurato col nastro bianco, tutti la circondarono per salutarla con la stessa tenerezza che se fosse partita per il giro d'Europa. Mamma, tu non devi avere mai l'impressione che io sono lontana, separata da te. E che ti voglia meno bene ora che ne voglio tanto a John, assicurò abbracciando la mamma con gli occhi per un momento pieni di lacrime. Babbo, io verrò tutti i giorni. Non rinunzio al posto che ho sempre avuto nei vostri cuori, ora che sono maritata. Beth deve stare molto da me, e le altre due ci devono venire spesso. Si divertiranno a vedere le mie difficoltà di neopadrona di casa. Grazie. Grazie per la bella e indimenticabile giornata. Addio. Addio. E tutti la stettero a guardare, pieni di amore e di speranza, di tenero orgoglio, mentre se ne andava appoggiandosi al braccio del suo John, con le mani piene di fiori, col bel sole di giugno che splendeva sul suo volto felice. Così cominciò la vita coniugale di Meg. Capitolo 3. Tentativi d'arte. Per capire la differenza fra il talento e il genio ci vuole molto tempo, specie quando si è giovani e ambiziosi. Amy la stava imparando a costo di grandi sofferenze. Confondendo fra loro l'entusiasmo e l'ispirazione, si provò con giovanile audacia in tutti i più svariati rami dell'arte. Per molto tempo i fantocci di Creta furono messi da parte per dedicarsi al bianco e nero, nel quale il suo gusto e le sue attitudini naturali le davano soddisfazioni e le promettevano bene. Ma presto gli occhi si stancarono di lavorare con la penna e il bianco e nero fu abbandonato per un ardito tentativo di pirografia. Finché durò questo entusiasmo, la famiglia visse col timore di un incendio ad ogni momento, perché con una frequenza allarmante si sentiva odore di bruciato, si vedeva uscire fumo dagli abbaini della soffitta o da qualche finestra. Oppure era un ferro rovente dimenticato in un luogo o in un altro, sicché Anna non andava mai a letto senza portar seco un secchio d'acqua e la campana del pranzo per dare prontamente l'allarme in caso di pericolo. Si rivoltava la spianatoia della madia e appariva, eseguita alla brava, una faccia di Raffaello, oppure un volto di Bacco sul fondo di un barile da birra, o era la casetta dello zucchero che aveva il coperchio abbellito da un angelo di Melozzo da Forlì. E per qualche tempo la legna leggera per accendere il fuoco era costituita dalle tavolette sulle quali Amy aveva provato a pirografare Garrick che compra i guanti dalla grisetta. Frequenti le scottature alle dita e l'uso dell'olio per medicarle. Di qui, naturale, il passaggio alla pittura a olio, alla quale Amy si dedicò con rinnovato ardore. Un'amica artista le fornì tavolozze e pennelli smessi e residui di colore, e Amy, via con questa roba a pennellare paesaggi e marine quali mai si videro in terra e in mare. I suoi animali avrebbero riportato il premio ad una mostra agricola come soggetti di fantasia. I suoi bastimenti beccheggiavano da far venire il mal di mare all'osservatore più marino. Se non l'avessero fatto scoppiare dal ridere, l'assoluta indifferenza a tutte le regole conosciute di costruzione navale e di attrezzatura. Da ogni angolo dello studio vi guardavano monelli abbronzati e madonne dagli occhi neri, ma non facevano certo pensare a Murillo. Le facce nell'ombra, scure e bituminose, con un riflesso sinistro fuori di posto, volevano ricordare Rembrandt, prosperose matrone, putti idropici Rubens, nembi azzurri, lampi arancioni, piogge color nocciola, nubi purpuree con una chiazza di pomodoro nel mezzo che poteva essere a piacere dell'osservatore, il sole, un gavitello, la giacca di un marinaio o il manto di un re rappresentavano Turner e l'impressionismo. Poi venne la volta dei ritratti a carbone, ed ecco tutta la famiglia in fila appesa a un muro, con le facce tinte che parevano uscite da una carbonaia. Eseguite a matita, figuravano un po' meglio perché la somiglianza c'era, e i capelli di Amy, il naso di Joe, la bocca di Meg e gli occhi di Lori erano, per consenso generale, bellissimi, meravigliosi. Seguì un ritorno alla creta e alla plastilina. E in tutti gli angoli della casa fu un'invasione di teste conosciute dall'aspetto più o meno pauroso, che spesso, quando si apriva un armadio, cascavano addosso. Si attiravano con arti varie i monelli per farli posare, e i loro racconti confusi sul contegno misterioso di Emi finirono col farle una fama di fattucchiera. Ma i suoi sforzi in questo campo furono troncati di colpo da un incidente spiacevole che smorzò i suoi entusiasmi. Per qualche tempo, non trovando modelli, si mise a prendere impronte di se stessa, finché un bel giorno la famiglia accorse spaventata da certi colpi misteriosi e da certi strilli in soffitta e trovò la giovane artista che saltellava con un piede imprigionato in una padella piena di materia plastica che si era indurita con rapidità inattesa. Con molta difficoltà e con qualche pericolo la tirarono fuori, ma mentre lavorava, Joe rideva tanto che col coltello andò troppo oltre e sul grazioso piedino di Amy rimase una cicatrice che fu forse l'unico ricordo durevole dei suoi tentativi d'arte. Dopo quell'incidente, Amy per un po' smise di lavorare, ma presto le venne la passione degli schizzi dal vero ed eccola per il fiume, per i campi e per i boschi, in cerca di soggetti pittoreschi e di rovine. Rimase lunghe ore a prender freddo, seduta sull'erba umida, per riportare a casa l'impressione deliziosa di un sasso, di un mozzicone di tronco, un fungo, un arbusto, oppure un ammasso di nuvole divine che aveva tutta l'aria di un mucchio di cuscini di piuma ben sprimacciati. Per studiare le luci e le ombre, Amy si espose al sole di luglio senza riguardo per il suo bel colorito e le si formò una ruga al naso a forza di osservare le prospettive, o che altro fosse quella misteriosa faccenda per la quale bisognava tenere disteso uno spago, traguardare con un occhio solo ed osservare come gli strabici. Se, come pare abbia detto Michelangelo, il genio è pazienza eterna, Amy certo aveva il diritto di vantare la scintilla divina, perché ella perseverava, malgrado gli ostacoli, gli insuccessi e gli scoraggiamenti, nella ferma convinzione di arrivare al fine a qualche cosa meritevole del nome di arte, con la A maiuscola. Intanto, oltre all'arte, Amy imparava, faceva e amava altre cose, giacché era decisa, se anche non riusciva a essere una grande artista, a diventare una dama attraente e compita. In questo ebbe più successo, perché ella era uno di quegli esseri fortunati che riescono a piacere senza sforzo, a farsi amici tutti e a prendere la vita con tanta grazia e disinvoltura che le persone meno favorite dalla sorte le credono nate sotto un pianeta eccezionalmente favorevole. Tutti le volevano bene. Anche perché, fra gli altri doni di natura, ella aveva un gran tatto, un istinto sicuro di ciò che piace e di ciò che sta bene, di quello che bisogna dire con questa o con quella persona, di che cosa bisogna fare secondo il tempo e il luogo. Era così padrona di sé che le sorelle dicevano: se Amy dovesse anche presentarsi a corte senza far prima la prova generale, saprebbe esattamente come comportarsi. Aveva un debole. aspirava a frequentare la buona società, però non sapeva con certezza quale fosse davvero la buona società. Denaro, posizione sociale, eleganza, maniere chic erano tutti vantaggi a cui ella dava molta importanza e le piaceva trattare con le persone che li avevano, non senza confondere sovente l'apparenza con la realtà e ammirare ciò che non meritava ammirazione. Non dimenticheremo mai, ad ogni modo, che per nascita ella apparteneva alla classe eletta e coltivava gusti e sentimenti eletti per potere, presentandosi l'occasione, prendere nel mondo il posto dal quale per il momento la teneva lontana la povertà. Milady la chiamavano gli amici ed ella aspirava con tutto il cuore ad essere un'autentica grandama e in fondo lo era, ma doveva ancora imparare che la vera signorilità, la raffinatezza, non si comperano col denaro e la posizione sociale non basta a darci la nobiltà, mentre la vera superiorità di razza si fa sempre notare nonostante gli ostacoli dell'ambiente. Vorrei chiederti un favore, mamma. Uscì a dire Amy un giorno alla signora March con gran serietà. Che cosa, piccina? Le chiese la madre. Per lei la bella signorina dalla statura alta e dal portamento distinto era sempre la piccina. Quest'altra settimana la scuola di disegno prende le vacanze d'estate. Prima che le compagne se ne vadano, io vorrei invitarle qui per una giornata. Hanno tutte una gran voglia di vedere il nostro fiume, fare qualche schizzo dal vero del ponte in rovina e delle cose che hanno ammirato nel mio album. Ho ricevuto da loro tante gentilezze di ogni genere e sento di dovermi sdebitare. Loro sono ricche, lo so, e io sono povera, ma nel loro comportamento verso di me questa differenza non mi è mai stata fatta rilevare. E perché avrebbero dovuto fartela rilevare? La signora March fece la domanda con il tono che le figliuole chiamavano il tono di Maria Teresa. Oh, lo sai bene anche tu che una differenza c'è e che tutte o quasi tutte la sentono. Perciò non devi prendere quell'aria offesa della chioccia quando le toccano i pulcini, mammina cara. Pensa che fra i giovani paperi che hai covato potrebbe anche darsi che ci fosse un cigno, è vero? E mi sorrise senza ironia. Il suo bel carattere era pieno di ottimismo e portato alla speranza. La signora March sorrise e si rabbonì subito. Va bene, mio caro cigno, dimmi la tua idea. Mi piacerebbe invitarle a colazione quest'altra settimana e portarle a fare una trottata nei luoghi che vogliono vedere. Magari anche una gita in barca sul fiume, insomma, un piccolo ricevimento artistico. Ma non mi pare impossibile. Cosa vorresti dare per colazione? Torta, pagnottelle gravide, frutta e caffè basteranno? Non ti pare? Oh no, cara, ci vorrà un rifreddo di lingua e di pollo e poi cioccolato alla francese e gelati. A tutte queste cose ci sono avvezze e io voglio che riesca una colazione decorosa ed elegante, anche se offerta da una ragazza che lavora per vivere. Quante saranno? Domandò la mamma cominciando a farsi seria. A scuola siamo 12 o 14, ma non credo che verranno tutte. Ma figliola cara, ci vorrà un omnibus a Nolo per portarle in giro. Ma no, mamma, come ti viene in mente? Più di 6 o 8 al massimo non ne verranno. Basterà una di queste giardiniere della spiaggia e lo charabà che mi presterà Lori. Charabà, nel francese di Amy, era lo charabà. Ma costerà sempre molto, Amy. Non tanto, ho fatto il conto, questa spesa la pago io. Ma pensaci un po', cara, a queste cose quelle ragazze ci sono avvezze. Tutto ciò che potresti offrire non sarebbe per loro una novità? Non sarebbe meglio pensare a qualcosa di più semplice? Sarebbe per loro una novità e per noi molto più conveniente che l'andare a comprare, affittare e chiedere in prestito tante cose di cui abitualmente non abbiamo la necessità, per cercare di metterci ad un'altezza che non è proporzionata ai nostri mezzi. Se non posso fare una cosa come l'intendo io, preferisco rinunziare. So che posso riuscirci benissimo, solo che tu e le sorelle mi diate un po' di aiuto. Perché non dovrei riuscirci se sono pronta a pagare io la spesa che occorre? La decisione di Amy era già presa in anticipo, sicché l'opposizione che incontrava non faceva che renderla più ostinata. La signora March sapeva bene che l'esperienza è il miglior maestro. Quando era possibile, lasciava che le sue ragazze apprendessero da sé le lezioni che ella avrebbe dato loro volentieri. E sarebbero pertanto riuscite più facili, ma i consigli delle persone adulte riescono per i ragazzi molto più ostici che il sale inglese e l'olio di ricino. Quando è così, Va bene, Amy, se sei già decisa e se vedi la possibilità di cavartela senza spendere eccessivamente, senza affaticarti troppo e senza inquietarti, non ho altro da osservare. Parlane alle tue sorelle e da parte mia farò quello che posso per aiutarvi. Oh, grazie, mamma, come sei buona sempre! E Amy andò a esporre il disegno alle sorelle. Meg acconsentì subito e promise il suo aiuto, offrendo di cuore tutto ciò che possedeva, dalla casetta fino ai cucchiaini. Joe, invece, aggrottò le ciglia e sulle prime non volle saperne. Perché vai a spendere il tuo denaro, a dar tanti pensieri alla famiglia, a mettere sopra la casa per un branco di ragazze che di te se ne infischiano? Credevo che tu avessi l'orgoglio e il buon senso di non metterti a far loro la corte semplicemente perché si calzano a Parigi e hanno la carrozza. Joe, distolta da un punto interessantissimo del suo romanzo, non era precisamente dell'umore che ci voleva per acconsentire a certi esperimenti di società. Io non faccio la corte a nessuno e lasciarmi trattare dall'alto in basso è una cosa che odio quanto te, ribatté Amy sdegnata. Quando nasceva una discussione simile fra le due era sempre una lite. Quelle ragazze mi vogliono bene ed io voglio bene a loro e sono persone gentili e intelligenti e piene di talento, malgrado tutte le fisime di eleganza, come le chiami tu. Tu non ci tieni a farti voler bene dalle persone, a frequentare la buona società, a coltivare le tue maniere e i tuoi gusti. Io sì, e quando mi capita l'occasione ne voglio approfittare. Secondo te il camminare fra la gente coi gomiti in fuori e col naso all'aria si chiama indipendenza? Padronissima, ma io non faccio così. Quando Amy usava le parole pungenti e diceva quello che aveva dentro, finiva di solito con l'aver ragione, perché aveva quasi sempre l'abilità di mettersi dalla parte del senso comune. Joe invece spingeva l'amore per la libertà e l'odio per le convenzioni a un punto tale che quasi sempre nella discussione si metteva dalla parte del torto. La caricatura che faceva Amy dell'idea che aveva Joe dell'indipendenza era così indovinata che ambedue scoppiarono a ridere e il dialogo prese una piega di maggior cordialità, tanto che alla fine Joe, pur controvoglia, acconsentì a sacrificare una giornata per dare il suo aiuto. Gli inviti furono mandati e quasi tutti accettati. Il grande evento era stabilito per il lunedì. Anna era di umore impossibile perché le scombinavano tutte le sue faccende per una settimana. Se non si fa regolarmente il bucato e la stiratura, tutto il resto va a rotoli. Era effettivamente pericoloso anche per la riuscita della festa sconvolgere tutto l'ordinato meccanismo della casa, ma il motto di Amy era Nihil desperandum. Presa la sua decisione, ella procedette nello svolgimento del programma a dispetto di tutti gli ostacoli. Per cominciare, la cucina di Anna non riuscì bene, i polli duri, la lingua troppo salata, il cioccolato non mussava a dovere. Oltre a ciò, la torta e il gelato costarono più di quanto Amy aveva calcolato, e così la giardiniera. Varie altre spese che sulle prime parevano da poco, finirono poi col portare il totale a una cifra impressionante. A Beth venne un raffreddore e si mise a letto. A Meg capitarono parecchie visite inattese e la costrinsero a stare in casa sua. Joe, combattuta fra mille pensieri, faccende e problemi, fece rotture, guai ed errori più numerosi, più gravi e più disastrosi del solito. Se non c'era la mamma non ne cavavo le gambe, soleva poi dichiarare Amy, sempre memore e riconoscente, quando per tutti gli altri il grande avvenimento era già storia dimenticata o ricordata al più come lo scherzo più bello di quella stagione. Si era anche combinato che se il lunedì non avesse fatto bel tempo, le invitate sarebbero venute il martedì e questo irritava moltissimo Joe e Anna. Il lunedì mattina il cielo era in quello stato indefinibile che è peggio della pioggia continua. Un momento piovigginava, poi schiariva un poco e si metteva un po' a vento. Non si decideva mai, insomma, e non permetteva di decidere. Amy, in piedi fin dall'alba, tirò giù dal letto tutte le altre, fece loro ingozzare la colazione in fretta e poi tutte a lavorare per i preparativi, per mettere la casa in ordine. Il salotto le pareva poco decoroso, ma non si fermò a sospirare per ciò che non aveva, cercò invece di mettere a profitto con abilità ciò di cui disponeva, mettendo una sedia dove la tappezzeria era consumata, coprendo una macchia nel muro con una stampa, un disegno o una ghirlanda d'edera, riempiendo un poco gli angoli vuoti con statuine fatte in casa, fra queste e i vasi di fiori profusi ovunque da Joe, l'insieme era abbastanza artistico. La colazione si presentava benissimo. Amy l'ammirava con gli occhi, augurando di tutto cuore che il gusto corrispondesse all'apparenza e che i bicchieri, le porcellane e le argenterie prese in prestito tornassero incolumi ai loro proprietari. Le carrozze dovevano arrivare. Meg e la mamma si tenevano pronte a fare gli onori di casa. Beth dava una mano ad Anna fra le quinte, di più non poteva fare. Joe si sforzava di essere allegra e gentile fin dove glielo permetteva l'abituale distrazione, aggravata da un mal di capo e da una gran voglia di trovare da ridire su tutto e su tutti. Mentre si vestiva svogliata, Amy affrettava col pensiero il momento che, passata la colazione senza incidenti, lei con le invitate trotterebbero a godersi le belle vedute dei luoghi. Dallo Sharabà e dalle rovine del ponte si riprometteva due successi. Quelli erano i due grandi numeri del programma. In casa tutto era pronto, ormai, ed Amy ebbe 2 buone ore per agitarsi avanti e indietro fra il salotto e il portico d'ingresso, come un'anima in pena, mentre la pubblica opinione, circa il tempo, non faceva che mutare ad ogni istante come le banderuole del vento. Una breve pioggerella che cadde alle 11 doveva evidentemente aver raffreddato gli entusiasmi delle invitate, attese per il mezzodì. Infatti non ne comparve nemmeno una. Alle 2 tutta la famiglia sedette stanca e snervata, con un sole magnifico, per consumare quella parte delle vettovaglie che era soggetta a deperire e che bisognava quindi utilizzare subito. Oggi il tempo è al bello, deciso, verranno certamente, muoviamoci, teniamoci pronte, disse Amy la mattina dopo, svegliandosi col sole. Il suo tono era vivace, ma dentro di sé era pentita di quel rinvio al martedì. Come la torta cominciava a seccarsi, così cominciava a passarle l'entusiasmo per quell'invito. È impossibile avere l'aragosta e bisognerà che tu faccia senza dell'insalata oggi, le disse il babbo mezz'ora dopo, rientrando in casa con un'aria sconsolata, ma non tragica. Adopera il pollo, allora, consigliò ad Amy la mamma. Se anche sarà un po' duro, nell'insalata poco importa. Anna l'ha dimenticato un momento sulla tavola in cucina, annunziò Beth, e i gatti se lo sono portato via. Mi dispiace, Amy. Beth, protettrice dei gatti, si sentiva un po' responsabile. Allora, l'aragosta ci vuole, dichiarò Amy decisa. Con la lingua sola l'insalata non va. Vuoi che faccia un salto in città a cercarla? Le chiese Joe con un slancio di martire volontaria. Oh no, tu la porteresti a casa sotto un braccio senza carta per farmi rabbia. Ci vado io, rispose Amy, cominciando a perdere la pazienza. Avvolta in un velo fitto e munita di una sporta valigetta che dissimulava la propria distinzione prosaica, Amy si avviò. Sperava che la trottata in omnibus l'avrebbe calmata un poco, rimettendola in grado di affrontare le fatiche della giornata che l'attendeva. Ci volle un po' di tempo, ma trovò l'aragosta e, provvistasi anche di condimento belle preparato in una bottiglia, riprese l'omnibus congratulandosi con se stessa della sua previdenza. C'era solamente un altro passeggero, una vecchia signora, mezza addormentata. Amy si tolse il velo e, per passare il tempo, si mise a fare i conti. Dove era andato a finire tutto il denaro che aveva speso? Il foglietto, tutto ricoperto di somme che non volevano tornare, l'assorbiva tanto che non si accorse di un nuovo passeggero che era salito nell'autobus in corsa senza fermarlo. Buongiorno, signorina, disse una voce maschile. Elevando gli occhi, Amy riconobbe uno dei camerati più chic di Lori, uno che si chiamava niente meno Tudor. Speriamo che scenda prima di me, si augurò Amy in cuor suo. Ed evitava con cura di guardare la sporta valigia che era posata ai suoi piedi, rallegrandosi anche di aver indosso l'abito da viaggio nuovo, e restituì saluto col solito dolce sorriso. La conversazione si svolse magnificamente. Amy si sentiva rassicurata perché Tudor aveva detto subito che scendeva presto, ma mentre con signorile disinvoltura e la scambiava con lui le solite battute che non dicevano nulla, ecco che la vecchia signora si levò per discendere e, avviandosi con passo incerto all'uscita, inciampò nella sporta valigetta che si rovesciò e si aperse esponendo, orrore, l'aragosta in tutta la sua volgare vivacità di colore agli sguardi sorpresi del giovanotto elegante. Per Diana! Ha dimenticato il pranzo, esclamò Tudor, mentre con la punta del bastone respingeva la belva dal color di fiamma dentro la sporta e stendeva la mano per afferrarne la maniglia e porgerla cavallerescamente dal finestrino. No, vi prego, è mia, disse Amy con una voce che si udiva appena e il volto rosso quanto l'aragosta. Ah sì? Scusatemi allora. È magnifica, disse Tudor con una presenza di spirito, una curiosità perfettamente simulata e una disinvoltura che facevano onore al suo tatto e alla sua educazione. Amy si riprese prontamente, si posò la sporta accanto sul sedile e disse ridendo: Ci vorreste essere quando l'insalata verrà in tavola con le belle signorine che ci saranno? Anche lei, bisogna dirlo, dava prova di gran tatto col fare appello a due debolezze tutte mascoline. Un nembo di immagini piacevoli avvolse il volgare crostaceo e la fantasia del giovanotto si destò, chiedendosi chi potevano mai essere le belle ragazze. Tutto ciò allontanava il pensiero dall'incidente prosaico, almeno per il momento, ma dentro di sé, mentre Tudor si levava per salutarla e scendere, chissà con Lori, diceva Amy, che risate e che commenti ci faranno. Basta, io non ci sarò allora, e questa è una consolazione. A casa non disse nulla dell'incidente. Si accorse però che la bottiglia si era stappata e dalla sporta allagata il condimento era sgocciolato sul vestito nuovo, rigandolo del suo colore con bell'effetto decorativo. Ma Amy si diede tutti ai suoi preparativi, che adesso erano anche più complicati. A mezzodì tutto era pronto un'altra volta. Amy, supponendo che i vicini si occupassero delle sue faccende, volle cancellare con un bell'effetto l'impressione del fiasco del giorno prima, perciò si fece aspettare alla porta dallo Sciarabà e partì in pompa magna per andare incontro alle ospiti. «Eccole, vengono!» disse la signora March quando sentì il rumore del veicolo che ritornava. «Voglio scendere sotto il portico. È un atto di cortesia e una soddisfazione per Amy, poveretta, dopo tanti contrattempi.» E discese, ma data appena un'occhiata, risalì in fretta con un'espressione indefinibile sul volto. Nel carrozzone monumentale non c'erano che due ragazze, Amy e una delle amiche. Presto, Beth, dà una mano ad Anna, sgombrate la tavola, che effetto farebbe apparecchiata per 18? Esclamò Joe scendendo le scale di corsa. Era tanto agitata che non si fermò neanche un momento per ridere. Ed ecco entrare Amy, perfettamente calma e sorridendo all'unica ospite che aveva mantenuto la parola. Il resto della famiglia, non per nulla erano filodrammatiche, fece la sua parte ugualmente bene. Amy Elliott trovò che erano persone divertenti, sebbene tutte si trattenessero a stento dal ridere. La colazione, predisposta per 18 e ridotta per 7, grazie ad un prodigio di improvvisazione, riuscì molto allegra. Benone riuscì anche la visita allo studio e al giardino, con animate discussioni di arte. Amy aveva ordinato un carrettino a due ruote, altro che Sciarabà, e scarrozzò l'unica ospite per i dintorni fino al tramonto, quando la compagnia si sciolse. Rientrando a piedi, molto stanca ma più disinvolta e composta che mai, ebbe la soddisfazione di vedere che era scomparsa ogni traccia del malaugurato banchetto. Meno forse un sospetto di tic nervosi negli angoli della bocca di Joe, che aveva maledettamente l'aria di una risata pronta a scoppiare. Ti sei fatta una bella trottata, cara? Le disse la mamma, seria, come sarebbe stata se le invitate fossero venute tutte e 12. Miss Elliot è molto carina e mi pare che si sia divertita molto, osservò Beth, animandosi insolitamente. Mi potete lasciare un po' di torta? Ne avrei tanto bisogno. Aspetto molte persone e a me non riesce come a voi, disse Meg, serissima. Oh, te la puoi prendere anche tutta, le rispose Amy. Qui i dolci piacciono solo a me e si guasterebbero prima che la finissi. E con un sospiro Amy si ricordava di aver fatto le cose tanto in grande per quel risultato. Peccato che non c'è Lori a darci una mano, cominciava Joe mentre il gelato e l'insalata comparivano in tavola per la quarta volta in 2 giorni. Un'occhiata circolare della mamma troncò i commenti e tutti sedettero a mangiare con uno sforzo eroico per non dire altro. A un certo punto il signor March osservò in tono posato: Agli antichi le insalate piacevano moltissimo e Evelyn. Allora scoppiò una risata generale che, con gran sorpresa dell'erudito March, troncò la sua dissertazione di insalatologia comparata. Mettiamo tutto nel cesto e mandiamolo agli Hammel. Ai tedeschi piacciono i pasticci. A vedersela sempre davanti questa roba disgusta. E non c'è ragione di morire di indigestione perché sono stata una sciocca, esclamò Amy asciugandosi gli occhi. Io per poco non sono morta da ridere quando ti ho vista arrivare con l'amica, due sole dentro quell'arca di Noè, come la chiami tu, Sharabà? E la mamma sotto il portico tutta seria e solenne ad aspettare la folla. E Joe riprese fiato dopo una risata che non finiva più. Mi dispiace molto che tu abbia avuto una delusione, cara, disse la signora March in tono di materna comprensione. Noi però abbiamo fatto il possibile per accontentarti. E io ve ne sono grata. Del resto volevo fare una cosa e l'ho fatta. Se è riuscita male, non è stata colpa mia, e questo mi consola, disse Amy con la voce un po' tremante. Vi sono molto riconoscente, ripeto, per l'aiuto, ma ancora più vi sarò riconoscente se di questa faccenda non se ne parlerà più almeno per un mese. E nessuno fiatò per parecchi mesi, ma a dire appena la parola banchetto, un sorriso vago correva su tutti i volti. Ad Amy, per il suo natalizio, Lori regalò un amuleto per la catenella dell'orologio, consistente in una piccola aragosta di corallo.